tutti a Madeira. Non è la reclama di un'agenzia di viaggio, ma quello che fanno alcune aziende. L'isola, un tempo paradiso solo per turisti, oggi è anche un importante centro economico e finanziario, nonché un'oasi fiscale. Costituita con decreto nel 1982, la zona di libero scambio ha attratto un considerevole numero di aziende. Praticamente non si pagano le tasse e solo recentemente sono state introdotte aliquote dell'1-2-3%, mentre l'IVA è al 13%. La più bassa d'Europa. Un regime fiscale di favore che incredibilmente è autorizzato dalla Commissione europea. Così alcune case farmaceutiche hanno deciso, ad esempio, di registrare i loro brevetti lì, come Sigma Tau, la quale è stata oggetto nel 2010 di un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, nel quale viene contestata all'azienda una presunta evasione fiscale da 11 milioni di euro attraverso una procedura chiamata transfer pricing, cioè il trasferimento di valore da una società del gruppo ad un'altra con sede all'estero, nel caso la portoghese Defiante, che si fa carico della parte fiscale al posto della prima. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.